alle arpie e ai fufisti ovviamente eccetera, a coloro i quali sostenevano costantemente il criterio dello sconfittismo. Sono stati scritti di libri su questo decennale, tutti mi sembra, tutti, non li ho letti tutti, ma insomma una buona parte tutti, sarebbe stato impossibile perché ovviamente ne sono usciti qualcuno talmente tanto. Mi ha toccato tra virgolette pure presentarlo, stroncandolo ovviamente eccetera, quello di Marisio in particolare ovviamente eccetera. Ebbene, dentro questo percorso invece si è parlato di cose concrete, a partire dagli ospiti che molto seri, molto preparati, mi hanno fatto grandissima impressione, gli egiziani e i tunisini, in particolare l'egiziano, sicuramente una figura di intellettuale, un perfetto inglese ovviamente eccetera, ma perfettamente a conoscenza della vicenda di Piazza Tahrir, di cui è stato protagonista, e chiaramente in una riflessione a tutto campo, tenuto conto della pochezza, come dire, di svolgimento delle possibilità che i giovani di quell'epoca possono avere. È stato più volte in galera, a testimonianza ovviamente di una soggettività che non si tira indietro, e mi è fatto piacere questa riflessione ovviamente su chi comanda in questo tempo, che contributo può dare la rivolta araba ovviamente all'insieme della messa in movimento contro il liberismo e il capitalismo, e queste sono state le riflessioni. Le parzialità, dicendo chiaramente che loro stanno procedendo su un piano rivoluzionario che è fatto di vittorie e di sconfitte, che quindi ci sono solo prime tappe in questo momento, che tutto può essere rimesso in discussione, ma che sicuramente il conflitto a un certo punto avverrà anche tra riformisti e rivoluzionari, intendendo tra i riformisti coloro i quali che si possono accontentare ovviamente di quello che passa il convento. Il convento passa a un triangolo di Satana, come lui ha voluto dire. Il convento è l'alleanza formidabile tra Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti, quindi questa è la concretezza che ti fa piacere sentire, insomma, eccetera, che sennò ogni tanto paventiamo che potremmo essere le nostre estremizzazioni, invece sono anche le loro, e quindi questo ci accomuna. Quindi si è parlato non tanto e solamente di solidarietà, ma che di compartecipazione. Loro ci hanno detto: dateci una mano. Spero che la mano significherà ovviamente che pure loro aver tener conto di quello che è accaduto a Genova, delle riflessioni che sono state fatte, ce ne sono state fatte, voglio dire. Abbiamo tirato su alcuni seminari, io credo abbastanza intelligenti, quelli sull'energia, sull'acqua, quelli sul lavoro, quella sull'istruzione, ovviamente che sono nodi dolenti della vicenda italiana, ma anche vittoriosi come quella del referendum già fatti. Sull'energia si è detto ovviamente che la prossima campagna è quella di tentare alla denuclearizzazione dell'Europa, e quindi quando parliamo di questo parliamo innanzitutto di Francia, e quindi di debellamento del nucleare francese, che non sarà da poco, e soprattutto quando parliamo di Italia significa togliere di mezzo l'Enel, che non sarà da poco, ma in questo paventa ovviamente la battaglia sulla ripubblicizzazione dell'energia. Come sapete, l'Enel ovviamente non è più un ente, ma è una SPA, quindi deve tener conto dei profitti che deve fare una SPA, ma in questa sua multilaterale acquisizione ha comprato l'Endesa, che ha 5 centrali nucleari spagnole, e ha comprato ovviamente la rete elettrica slovacca, che ha una centrale nucleare. Quindi in definitiva lo Stato italiano, che detiene il 33% dell'Enel, mantiene ancora il nucleare, quindi non facciamoci mai fregare, è una delle battaglie da fare. L'altra battaglia è che vogliamo arrivare a una controconferenza sull'energia, ove mai il governo ne faccia una, se no faremo noi stessi appunto questa, una conferenza dell'energia popolare di base, affinché si capisca qual è la committenza del prossimo futuro, che dovrà sicuramente fare a meno delle energie fossili, e di una critica, come dire, costruttiva alle energie rinnovabili, ma soprattutto ai consumi e quello che capita dentro questa situazione. Mi sembra che sia stato svolto un buon lavoro, così come ovviamente sull'istruzione, dove ovviamente la critica alla Gelmini si è commisurata ai sistemi, come dire, di istruzione a carattere europeo, che tendono alla banalizzazione e che tendono a creare forme dell'elite esclusive, e su questo l'indirizzo ovviamente è copioso per poter partecipare ad una vicenda europea di carattere, come dire, di sostegno dal basso ovviamente a tutto quello che è il sapere, quindi dentro questo sapere la qualificazione di esso. Sul lavoro ovviamente si è messo a punto tutto quello che è stato il disastro italiano, che l'Italia sicuramente ha vissuto e continua a vivere la sua anomalia rispetto a tutti gli altri paesi europei. In questo disastro si situa ovviamente anche l'ultimo accordo del 28 di giugno, quello interconfederale, che sulla contrattualità e la rappresentanza, che non fa nient'altro che legittimare ovviamente gli accordi NewCo di Marchionne, di un lasciar via libera chiaramente peggiore di tutti quelli previsti precedentemente al padronato di fare quello che gli pare all'interno del mondo del lavoro, e quindi questo significa un peggioramento assoluto delle condizioni, eccetera. E da qui ovviamente anche un'indicazione a resistere in qualche misura, e resistere significa innanzitutto contrastare i disegni di CGIL, CISL, UIL e del patronato. Significa anche criticare ovviamente quanto fa la Fiom e quanto è il suo modo di accontentarsi. L'ultima recente, come dire, sentenza che è avvenuta dimostra tutto questo, dimostra quasi, adesso leggeremo il merito quando tra 60 giorni ci sarà, e capiremo che ovviamente Fiom ha fatto un ricorso proprio ad hoc, quello che lasciasse aperta, come è stato fatto, la disponibilità a stare dentro la NewCo, che ne dica ovviamente eccetera, e poi farsi dare comunque sia la propria rappresentanza, perché questo in qualche misura scalfiva due o tre articoli della Costituzione. Vado veloce ovviamente, dal punto di vista dei movimenti era sembrato nelle iniziative pubbliche dalla giornata di Carlo il 20 a Piazza Limonda, meglio dire Piazza Carlo Giovani Giovane, che la città non rispondesse, non c'erano più di 700 persone. Il giorno dopo la fiaccolata per la Diaz ce n'erano almeno 2000, cioè c'era un segno di coraggio. Ci eravamo messi, come dire, dal punto di vista del pensiero, dicendo speriamo che almeno ci siano 5000 persone alla manifestazione. Non avevamo un sentore di quello che poteva esserci di fuori, sapevamo che arrivava una buona delegazione della Notata, abbiamo vissuto e partecipato con loro ovviamente anche di notte insieme alle cose ovviamente eccetera, e ci siamo abbastanza meravigliati che almeno veri 30.000 persone c'erano alla manifestazione, di cui molta parte di quella sinistra genovese che poi ha partecipato 10 anni fa agli scontri, che ha vissuto malamente ovviamente gli anni successivi, insomma eccetera. Qui è stato un rinfrancare tutti quanti, innanzitutto i compagni genovesi che si erano spesi moltissimo, un rinfrancare tutti noi, aver verificato anche molte facce nuove oltre quelle un po' invecchiate di qualche decennio fa, insomma soprattutto abbiamo fatto conoscenza con i nuovi giovani di Milano, chiamati corsari, ovviamente io meno per me è una conoscenza, per qualcuno può darsi che lo sia di meno, e abbiamo visto solite sbruffonate da parte dei disobbedienti patavini, porto di qua, porto di là, alla fine uniti per la crisi, che ovviamente è questa alleanza maldestra tra loro, quel pezzo della Fiom e qualcun altro che ce la vogliono dare a bere, più di 800 persone non erano, ma io non ne voglio fare una critica così, voglio dire che la smettessero di fare sbruffonare, perché i Gobbas non erano più di 100, voglio dire, dal punto di vista reale, così come non lo erano molto di meno quelli della Fiom, così come quelli della CGIL. Non voglio fare anche qui raffronti, ma ti sto dando i numeri per una severa autocritica di tutto, così come erano molto di più di quello che uno si aspetta a Sinistra Critica. Non ho visto mai 500 compagni di Sinistra Critica tutti insieme nelle manifestazioni che ho visto fino a questo momento. Ecco, quindi c'è stata questa rappresentazione, che comunque il dato di fatto importante è che 30.000 persone hanno dato una dimostrazione che nessuno è morto, quantomeno sconfitto, che c'è all'ordine del giorno la necessità di una grande resistenza, per riconoscere ovviamente nessuna supremazia a nessuno, nessuna egemonia a nessuno, ma che se si vogliono fare passi avanti, se si vuole resistere collettivamente, se non si vuole consegnare quello che i disastri del governo Berlusconi ad altrettanti disastri che si annunciano con la possibile vittoria elettorale del prossimo centrosinistra, bisogna di grande autodeterminazione. Di questo si è molto parlato, anche per il conforto che ci hanno dato gli egiziani, i tunisini, cioè le rivolte arabe. Loro hanno parlato moltissimo di autodeterminazione, hanno portato moltissimo di auto-organizzazione, proprio molto molto molto, parole che pensavamo erano solo parole occidentali, ci fa piacere sentirle anche dall'altra parte, oltre il termine di resistenza. Loro hanno aggiunto il termine rivoluzione, sicuramente per loro lo è, in dubbio insomma, anche se noi pensiamo che è solamente un primo A da cui deve scaturire B e C fino a Z, insomma, se mai si riesce ad arrivarci. Conclusioni: c'è stata questa assemblea di ieri ovviamente è abbastanza partecipata, nonostante, come dire, poi ciascuno si è ritirato già a partire da domenica, da sabato sera, e quindi altri sono ripartiti la domenica mattina, altri ancora sono andati su in Val di Susa, perché ormai lì ovviamente è l'epicentro fondamentale di questa battaglia che ci deve accomunare tutti quanti. È una battaglia quotidiana, in questo momento estivo riesce meglio, ma speriamo, ce lo siamo detti pubblicamente, ce ne abbiamo fatti accordi, non lasceremo per un attimo la Val di Susa, ovviamente ci daremo il cambio anche durante l'autunno e l'estate, a far sì che pullman da Roma, pullman da Napoli, pullman da centro Italia, se non ancora più da sud, si sostituiscano almeno nei fine settimana, per non dare tregua ovviamente a questi stazzoni. Ieri c'è stata una cosa meravigliosa in Val di Susa, cioè il fatto che 300 alpini di quelli che hanno fatto il militare tra gli alpini si sono paventati lì di fronte agli alpini della Taurinense, quelli che vengono dall'Afghanistan, gliene hanno dette di tutti i colori. Probabilmente nasce una diaspora molto formidabile in questo club, come dire, del militare, no? Degli alpini in congedo, e vedrai che avrà i suoi frutti, perché la valle si è pavesata, e alla valle, come dire, alpina si è aggiunta, alla valle Susa alpina si è aggiunta alle valli altre, ovviamente in questa estrema superiore, una cosa importantissima, oltre al fatto di continuare le scaramucce, cioè fargli capire che noi siamo autoctoni nella valle, che gli altri sono gli occupanti, e quindi come tutti gli occupanti devono andare a fanculo e devono tremare, come dire, di notte, di giorno, in ogni occasione, perché questa storiaccia, che è una storiaccia infame, imbelle, che costa l'ira di Dio, che sposta addirittura le truppe militari in Italia, ovviamente, quindi a quel punto guai a chi rifinanzia più le missioni, perché pure questa diventa una missione, mi sembra, no? E quindi è all'attenzione di tutti questa particolarità. Detto questo, la riunione conclusiva ha indicato ovviamente ad una prossima tappa, il 4 settembre, ad un'assemblea generale, ad una riunione assemblea generale in cui ci siano non solo quelli che hanno tirato su organizzativamente Genova, ci sia la Notab, ci sia il Noponte, ci sia l'acqua, ci sia il nucleare, insomma, eccetera, affinché si possa condividere la necessità di un piano, come dire, un piano fatto a tappe, che porti in piazza con le manifestazioni, se ne annuncia una per i primi di ottobre, che porti in piazza il rifiuto ovviamente di questa manovra assassina a partire da adesso, quindi mettendo le basi per affrontare poi quello che sarà la macelleria sociale generale a partire dal 2013-2014, e insomma tenti a rappresentare, come dire, quella che è l'opposizione sociale in questo paese, insieme ovviamente alla disanima di quello che si annuncia come tappe a carattere generale per questo autunno. La prima tra tutti, dopo la manifestazione italiana, ovviamente ci sarà a novembre l'anti-G20 a Cannes, su quello bisogna prepararsi, perché ovviamente Cannes è a due passi dall'Italia, a due passi da Genova, e credo che ci sarà un impegno collettivo importante per demistificare ovviamente ormai questo raggruppamento che fa lacrime e sangue in Europa e nel mondo. E subito dopo ovviamente ci sarà una riflessione, subito dopo la riflessione si comincia da subito a partire da questa assemblea generale il 4 di ottobre, in cui è inserita ovviamente l'ulteriore conferenza climatica che quest'anno si svolge a Durban in Sudafrica, ma che sapete, come quella di Copenaghen fallita, come quelle altre ovviamente c'era, ha bisogno di mettere a frutto ovviamente una nuova committenza societaria, fatta ovviamente di rifiuto dei consumi hard, di logica ovviamente ipercapitalistica, eccetera. Mi sembra questa una buona traccia su cui lavorare, poi chi ha da tessere tessa, insomma, come lo ha fatto anche Roma Bene Comune, indicando ovviamente questa tappa di riflessione per il 10 ottobre, a cui ci confronteremo a livello, come dire, locale e nazionale, come tante altre che si annunciano. Ecco, adesso tra qualche giorno, mentre si invera e costante le tematiche anti-TAV che si svolgono nel campeggio anti-TAV di Chiomonte fino alla fine del mese, tra oggi e la fine del mese ci sarà anche il campeggio di Rissano giù a Taranto, dove sono all'ordine del giorno altrettante queste tematiche. Ecco, a Genova è mancato soprattutto il sud, soprattutto per le distanze, soprattutto perché non c'è una lira e sapete quanto costano i trasporti, eccetera, e però sarà oggetto di una riflessione comune ovviamente quello che è all'ordine del giorno anche di Genova. A maggior ragione se viene qualche altra indicazione dal sud ribelle, ci fa molto piacere. Certo, ci hai dato una serie di compiti per le vacanze, davvero. No, io non aggiungere nulla, è solamente il pensiero che c'è un qualcosa che traina, che mi sembra molto importante, al di là del fatto che il traino sono, come dire, i piccoli carretti che si uniscono anche alle grandi idee, che tutti insieme fanno perno per cercare di arginare questa massa demolente, ovviamente, che è il capitalismo neoliberista di quest'epoca. Se non fosse nient'altro che altre lacrime e sangue verranno dalle riunioni, come dire, che si stanno svolgendo a Washington, visto che lì siamo sull'orlo della bancarotta, ma tu puoi ben che immaginare che cercheranno ancora una volta di spostare la bancarotta nei nostri confronti. Assolutamente, però ci dà anche l'idea della gravità della situazione, perché se insomma la prima e forse unica superpotenza rimasta si trova a fare quasi la fine della Grecia, ecco, questo ci lascia intendere i prossimi mesi. Se si riuscisse a fare questa riflessione, non tanto noi poveri negletti alla base eccetera, ma facessero anche i cosiddetti spiriti democratici, che ogni tanto si ammantano ovviamente di americanismo, dovrebbero capire ovviamente qual è il fallimento tragico della grande speranza capitalistica, che dava da mangiare e da dormire a tutti quanti, che addirittura dava benessere, o addirittura in assoluto, come la Costituzione americana, dava felicità. Batte la pesca la felicità del presunto popolo americano ai danni di tutto il mondo. Sì, attualmente anche all'interno dello stesso popolo americano, perché lì la crisi è esterna ma anche interna. Va bene, vedremo un po'. No, fammi dire una cosa, che certo. Stavo dimenticando, che ovviamente ce l'hanno ripetuto anche i popoli del Maghreb, soprattutto loro. Non dimentichiamola che c'è una guerra in corso, la guerra ovviamente della NATO contro la Libia. Loro non hanno nulla a che spartire col dittatore Gheddafi, questa è la loro allocuzione, però sicuramente non hanno niente, assolutamente niente a che fare con la NATO, con i bombardamenti, perché sanno bene che questo prelude ovviamente anche un attacco nei loro confronti nel momento in cui decidessero di mandare a fanculo tutta l'impalcatura che l'imperialismo ha costruito in Egitto, in Tunisia, negli altri paesi del Maghreb. Assolutamente, poi è una guerra che è proprio completamente uscita da ogni ambito di comunicazione e di informazione, però continua e insomma non lascia presagire anche lì nulla di buono. Va bene, Vincenzo, ti ringraziamo, ti salutiamo, complimenti per l'ultimo arrivato, questo te lo faccio a nome anche di tutta la redazione, ovviamente. Dobbiamo farci i complimenti con Lella. Assolutamente, a lei in primis. Una compagna di 40 anni che qualcosa ha dato all'antagonismo romano.